Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Puntata numero 82 di Picchi di Frequenza ci accompagna nella terza e conclusiva parte del viaggio all'interno del nostro live al Buridda. Parleremo di vino con Massimiliano Murgo, avremo la recensione di Monica della libreria Monti in Città, avremo le news della settimana, qualche segnalazione di eventi, ma non soltanto, quindi restate con noi, puntata numero 82. Non più di due giorni fa raccontavamo, segnalavamo sulla nostra pagina Facebook come il lupo dopo quasi un secolo sia ritornato in Salento. Ebbene, oggi partiamo per la nostra rassegna stampa ad alta quota con un brano dal titolo Sentieri da lupi. Chi ce lo consiglia è Mountain Blog, a cavallo attraverso le Alpi sulle tracce del lupo. Un viaggio di 2171 km, 70 giorni, una media di 1500 metri di dislivello al giorno, bivaccando lontano dalla civiltà in sella ad una cavalla. Paola Giacomini ha deciso di percorrere l'intero arco alpino da est a ovest con la sua cavalla Isotta Raminga per raccontare le storie dei lupi e di tutti coloro che hanno a che fare con questi carnivori, tanto temuti per la voracità quanto ammirati come simbolo di libertà e di ritorno alla natura. Decisamente diverso il tono di mountcity.it che lo scorso 25 novembre ci ha dato un pezzo dal titolo Valanghe, cambia il clima, la strage è la solita. Due particolari interessanti emergono dal rapporto che ogni anno alle soglie dell'inverno viene diramato in Francia dall'Associazione Nazionale per lo Studio delle Valanghe e della Neve, l'ANENA, con riferimento alla stagione precedente evidentemente. Il primo particolare riguarda la circostanza che lo scorso inverno è stato mite, ma solo per il clima. Sempre alto invece si mantiene il tributo di vittime e sempre troppe non possono che risultare nelle Alpi francesi le 22 persone che hanno perso la vita andando fuori pista. Ma così è, la cifra non si discosta da quanto emerge ogni anno. L'altro particolare da non sottovalutare è che le vittime non appartengono alla categoria degli sprovveduti che si avventurano fuori pista senza le carte in regola per farlo, ma sono in genere praticanti assidi che si meritano tutta la qualifica di esperti. Il motivo? Semplice, spiega Fred Jerry, che ha minuziosamente recensito i 44 incidenti registrati. La ragione è da ricercare sia in fattori umani, effetto delle dinamiche di gruppo, eccessiva familiarità con il rischio, eccetera, sia nel fatto che statisticamente questo tipo di sciatore si espone di più ai pericoli, trascorrendo più tempo al di fuori dei percorsi pistati. La disamina non bella, ma continua, può essere interessante per gli appassionati del genere. Mentre ci spostiamo invece con un taglio decisamente diverso su montagna.tv per un pezzo dal titolo Dopo 51 anni riemerge dal ghiacciaio de Bosson il reattore del Boeing 707 di Air India. E il titolo e l'articolo comincia così: emerso dal ghiacciaio de Bosson sul versante francese del Monte Bianco, è stato recuperato ieri un reattore del Boeing 707 di Air India precipitato nel 1966 nel massiccio. Lo ha trovato Daniel Roche, francese che da anni si occupa delle ricerche dei resti dei due velivoli indiani caduti nella zona, il Malabar Princess nel 1950 e il Kang Chengyunga nel 1966. L'articolo, insomma, poi prosegue, però sostanzialmente, insomma, un grandissimo incidente di metà anni 60, di cui dopo diversi anni di ricerche sono stati ritrovati alcuni dei pezzi principali. E sempre di ghiacciai, ma da un taglio decisamente diverso, parleremo invece, questa non è che una segnalazione, un'anteprima del menù della prossima settimana, perché al piano terra non più di due giorni fa si è tenuto il secondo incontro del ciclo sui ghiacciai. Abbiamo avuto con noi i ragazzi dello studio Folder e di Italian Limes, che nel corso degli ultimi tre anni hanno prodotto un progetto e un'installazione che è andata anche in Biennale Architettura Venezia, che racconta come quei confini spesso giudicati rigidi e fermi e statici dagli stati, appunto, invece siano dei confini mobili, permeabili non soltanto dalle persone e dalle idee che se lo vogliono permettere, ma anche per effetto dei cambiamenti climatici. È un qualcosa che si sta misurando proprio in questi anni, che si può raccontare non solo da un punto di vista scientifico, tecnologico, cartografico, ma anche da un punto di vista artistico, creativo, esperienziale. E quindi, insomma, insieme a loro proveremo a ritornare sul tema dello stato di salute dei nostri ghiacciai a partire dai cambiamenti climatici e dalla capacità che abbiamo oggi di segnalare lo spostamento di questo confine mobile, in particolare in riferimento proprio a un ghiacciaio che ci ha recentemente restituito altri resti, quelli di il famoso ghiacciaio di Similaun, quelli in cui proprio in un confine conteso tra l'Italia e l'Austria è riapparsa la mummia dell'uomo di Similaun, ma di questo parleremo la prossima settimana. Siamo a Critical Wine e quindi non potevamo non parlare anche di vino. Peraltro, dopo un periodo, ce lo raccontano sempre di più climatologi e enologi, il caldo che da qualche anno a questa parte sta sempre di più riscaldando le nostre estati e anticipando le vendemmie, sta anche portando al fenomeno che la vite si sta spostando sempre più in alto come zona di coltivazione, cambiando caratteristiche dei vini, zona di produzione, e con le conseguenze che poi andremo a scoprire nei prossimi anni. Ma non serve salire così tanto in alto oggi siamo appunto con Massimiliano, uno degli espositori qui a Alboriga con Critical Wine. Ciao Massimiliano, e una domanda al volo, ma poi ci racconterai appunto delle vostre produzioni. Dalle nebbie delle fabbriche milanesi ai colli tortonesi, com'è questa esperienza? Sì, no, io ho cominciato a fare il vino per gioco 8 anni fa e lavoravo in una fabbrica metalmeccanica della Marcegaglia, appunto, e sapevo che avrebbe chiuso prima o poi, per cui da un gioco è diventato anche, diciamo così, via via col tempo la piccola produzione che facevo con un altro compagno della Rimaflo di Milano, che si chiama Stefano. C'avevamo una piccola autoproduzione operaia, Quita e Murg si chiamavano, che abbiamo messo insieme i nostri cognomi, che ricordano una parolaccia delle nostre terre. Io sono foggiano, sono già un immigrato già da 20 anni a questa parte, e sapevo che la fabbrica chiudeva e l'idea era avere un'alternativa. Per cui l'anno scorso, dopo una violenta battaglia sindacale che gli abbiamo occupato la fabbrica armate di taniche di benzina, mi pare di ricordare qualcosa, ma perché c'era sia Apo sia Luca, cioè, come dire, le storie qua è una storia di vino, ma esatto, sono storie che si intrecciano, che con cui abbiamo condiviso, insomma, anche bei momenti, insomma, di lotta nella città di Milano. Dopodiché abbiamo firmato un accordo, io ero il cacacazzo più cacacazzo dell'azienda, ho dovuto rinunciare al posto di lavoro per lasciare spazio ai miei colleghi, e grazie alla nostra partecipazione, erano circa 3-4 anni che partecipavamo alle Critical Wine, abbiamo conosciuto un'altra coppia di produttori che erano della Cascina Buia. Anche loro stranamente erano stati sfrattati dalla loro cascina, stavano cercando una vigna, allora abbiamo pensato appunto di fare una ricerca sulle colline tortonesi, che è una zona che da un punto di vista viticolo, diciamo, è sviluppata, non chiaramente come le Langhe per esempio, però dove fondamentalmente il vino si fa da poco tempo. Una volta i produttori di uva facevano l'uva e la vendevano a quelli di Asti, a quelli di Cuneo, dove usavano l'uva, diciamo, delle colline tortonesi per tagliare altri vini. Tant'è che, per esempio, nella zona dove siamo noi abbiamo preso una vigna in affitto da un padrone pieno di soldi, pure lui, che ha proprietà terriere dappertutto, produce plastica, è uno ricco, proprio ricco di brutto, non sapeva manco quasi che ce l'aveva sto posto. Grazie al sindaco lì di Monperone siamo entrati in contatto di questo, abbiamo preso 2,5 ettari di timorasso, che è questo vitigno tipico che si produce lì sulle colline tortonesi, che fino appunto 20-30 anni fa i contadini della zona avevano abbandonato completamente, perché era un vitigno un pochettino ostico da lavorare e soprattutto l'uva non si vendeva, cioè non c'erano i langhigiani o gli astigiani che andavano a comprare, invece venivano a prendere il cortese e la barbera, per cui addirittura avevano cominciato a espiantare il timorasso e a coltivare cortese e barbera proprio per fornire quelli che venivano a comprare l'uva da fuori. E grazie ad alcuni produttori della zona che hanno invece riscoperto le qualità di questa uva, il timorasso è diventato un vino ormai conosciuto in tutto il mondo, se ne produce pochissimo e è ripartita, diciamo, la produzione vinicola nella zona. La particolarità della zona delle colline tortonesi è che appunto la produzione del vino spesso se la sono messa a fare gente che non è della zona, cioè milanesi che abbandonavano la frenesia della città e si sono trasferiti in campagna, hanno provato a costruire esperienze piccole, particolari di produzione del vino, chiaramente non nella traiettoria mainstream, chiamiamola così, dei grandi produttori che ci hanno pure rotto il cazzo, perché sono quelli là che hanno distrutto la cultura del gusto e dell'alimentazione del nostro paese. L'Italia è un paese fantastico, la caratteristica particolare dell'Italia è la grandissima diffusione di microclimi, di biodiversità, zone particolari, per cui in ogni pezzo di terra dove impianti una qualunque coltivazione puoi produrre un prodotto diverso da lì a 10 metri proprio per queste caratteristiche di biodiversità, di microclimi che si costruiscono soprattutto sulle nostre colline, per cui la caratteristica dei vini dei produttori come noi è che sono vini tipici, che sono vini particolari, che rispettano la particolarità del territorio e della vigna che sta producendo. Invece sai, i produttori mainstream hanno standardizzato le produzioni per fare quel cazzo, certo, che vogliono loro sul mercato, e ci hanno fatto perdere la cultura del gusto, ci hanno fatto perdere, cioè la gente che beve vino si è dimenticata il sapore del vino e pensa che deve essere appunto al legno o alla vaniglia come quelli che vendono insomma i grandi produttori di vino. A parte il fatto che trovo scandaloso che Massi sia venuto qui a raccontarci tutte queste storie senza presentarsi con uno straccio di bottiglia, ci ascoltiamo una breve pausa musicale, se per gli appassionati del genere Lupin III, questo è lo Yoko Ono Trio in versione jazz. Massimiliano, nel tuo racconto quindi ci stavi parlando di riscoperta di antichi vigneti, di terre abbandonate, di una tradizione del vino che si era persa, se non per la, come dire, per essere fornitore di chi, dei grandi produttori. Ma al di là di questi ostacoli e della difficoltà appunto di riattivare vigneti abbandonati, per uno appunto come te, come nella vostra esperienza venendo dalla città, quali sono state le difficoltà più grosse, al di là ovviamente di quelle più propriamente tecniche legate alla produzione? Vabbè, intanto la prima difficoltà più grossa, che appunto essendo noi storicamente dei proletari, cioè nel senso abbiamo vissuto sempre il nostro lavoro, non ci abbiamo una lira, per cui fondamentalmente come tanti altri che hanno cominciato come noi, per cui la difficoltà è quella. Noi per esempio, per poter fare questa cosa, abbiamo preso delle vigne abbandonate che inizialmente non ci danno nessun tipo di costo, poi più là dovremo pagare. In questo modo, facendo leva soltanto sul nostro lavoro durissimo, perché per riprendere una vigna che è stata abbandonata da 7-8 anni, che è stata infestata da ginestre, vitalba, tutta una serie di infestanti che si creano soprattutto in quelle zone che sono zone boschive, poi abbiamo dovuto fare leva sul nostro lavoro. Quella è la, diciamo, la prima difficoltà, che però se uno c'ha voglia di lavorare si riesce a sopperire. Un'altra difficoltà è che i territori, voi lo sapete insomma come sono i territori agricoli, sia nel nord che nel sud, cioè hanno tutti quanti la stessa caratteristica, ovunque, anche nelle città, si ha paura di quelli che vengono da fuori, per cui inizialmente comunque c'è da dire che il territorio delle Colline Tortellesi è comunque un territorio accogliente, però in generale all'inizio c'è anche una certa diffidenza. Devo dire che per fortuna una delle cose più belle, diciamo, che siamo riusciti a costruire, tra l'altro in poco tempo, io con i miei soci, vi ricordo che l'azienda si chiama Il Vino e le Rose, sennò poi dopo, siccome sta dando il vino su, se non lo dico mi pesta, la cosa più bella che siamo riusciti a costruire con i miei soci è che in poco tempo, comunque con la nostra voglia, perché noi facciamo il vino per campare, ma facciamo il vino appunto perché abbiamo l'idea di utilizzare anche questo terreno come terreno di riconquista, di riappropriazione culturale e sociale, che, di una parte della nostra cultura sociale che ci è stata espropriata, insomma, dalla grande impresa vinicola. E quindi la nostra, per noi è importante costruire relazioni. Negli ultimi mesi siamo riusciti a creare una piccola rete con altri produttori che ci danno una mano, vengono a portarci il trattore quando c'è bisogno di fare una lavorazione particolare, ci scambiamo le cose. Ecco, si sta creando rete. La difficoltà è farla partire questa cosa, ma io penso che se si comincia di nuovo a costruire comunità contadine che si sostengono reciprocamente al loro interno, si può rilanciare insomma l'idea di un modo di produrre diverso da quello che è stato fino ad oggi, che non è finalizzato soltanto al profitto di pochi, ma al rilancio di territori, al benessere collettivo, insomma di tutti noi, ecco. Ultima domanda, Max, al di là appunto delle difficoltà e delle diffidenze che ci stavi raccontando, da quello che ci dicevi sembra di capire che da quelle parti di spazi per chi voglia, come dire, riavviare o avviare un'attività come la vostra ce ne sono, ma quindi, come dire, si è creato anche una sorta di cooperazione, di consorzio, cioè una riuscita a distribuire il vostro vino al di là, che in occasioni come queste, in circuiti alternativi, c'è una rete insomma di appoggi su cui potete contare? Beh, in realtà questa rete, soprattutto per la distribuzione, invece è tutta da costruire. Ci sono delle esperienze che si stanno facendo soprattutto a Milano, però diciamo che lì non, su questo terreno ancora non si sta lavorando, dobbiamo cominciarci a lavorare, tipo l'esperienza di fuori mercato, cioè di creare una logistica che favorisce i piccoli produttori per metterli in contatto con i gas, con le realtà locali di consumo, è una cosa che dobbiamo pensare, che secondo me, ecco, può essere un'idea che possiamo raccogliere. Una roba interessante che si sta facendo nel territorio tortonese è un'associazione che è stata diciamo che una dei nostri soci, la Felicia, è una delle animatrici principali, è questa associazione che si chiama Dei Forestieri, che, come dire, ha proprio la funzione di fare incontrare le persone che vengono da fuori, dalla campagna, che vogliono lasciare la vita di merda, devo dire io spesso, che abbiamo fatto nelle città ormai sature di qualunque cosa, e far incontrare questa gente con gli anziani che magari hanno lasciato la terra, magari non la riescono più a gestire, e a fare in modo che ci sia, come dire, che sia facilitata questo ingresso nel territorio da parte di forestieri, appunto, che vogliono lavorarci. Questa è una cosa molto interessante che sta avendo buoni risultati e sta ripopolando una zona che era stata completamente abbandonata. Grazie Max, e che dire, cin cin, in bocca al lupo, e torniamo a Genova, o meglio alla musica, che non è di Genova, ma che di Genova ci parla. Chi vanno megna, megna coffelle, megna matalala, megna mascidi, a guarrara. Vorrei essere capace, ma non lo sono, di chiudere una sola puntata nel mese di novembre e dicembre senza ricordarvi che abbiamo aperto un crowdfunding, non io, non per la trasmissione di Picchi, ma l'Ape di Roma. L'obiettivo è quello di raccogliere 15.000 euro per ristrutturare il rifugio che è stato rinominato l'Alveare, in località Trio a Poggio Catino, siamo nei Monti Sabini in provincia di Rieti, non esattamente vicinissimo a quelli che probabilmente è il nostro bacino di ascoltatori, però vi chiedo una piccola mano ad andare sul sito di Produzioni dal Basso, accedere al crowdfunding promosso peraltro da Banca Etica e dare una mano alle nostre sorelle, ai nostri fratelli di Ape Roma a raccogliere questi 15.000 euro. Rifugio Alveare Alpino, so che è bello raccontarlo in giro, condividerlo, continuiamo a farlo, ma soprattutto dategli una mano perché questi ragazzi se lo meritano. Ci troviamo per la terza settimana in via Montenero 15 a Milano, presso la libreria Monticittà, in compagnia di Monica, che nelle scorse settimane ci ha già accompagnato negli scaffali della libreria di montagna. Per questo nostro ultimo appuntamento per questo ciclo, perché speriamo che questa diventi un'abitudine, parliamo di un romanzo ambientato in Friuli, ma non vi dico di più perché lascio la parola a Monica. Il libro di cui vorrei parlarvi oggi si intitola La montagna storta, l'autore è Renzo Brollo, è pubblicato da Botteghe Errante Edizioni, è un libro di circa 140 pagine per un prezzo di copertina di 13 euro. La storia si ispira ad un fatto realmente avvenuto, siamo nel 1976 in Friuli, più precisamente a Gemona. Tre ragazzi, poco più che adolescenti, amici fin dall'infanzia, entusiasmati dalle imprese alpinistiche di Cassin, di Bonatti e di Messner, decidono di avere anche loro la loro avventura alpina da raccontare. Ovviamente non possono pensare alle pareti nord delle Alpi, non possono pensare agli 8.000 himalayani, e quindi si rivolgono a quella che è la montagna di casa, il Monte Ciampon alle spalle di Gemona. È una montagna che conoscono bene perché più volte nelle scorribande estive l'hanno frequentata, ma in condizione invernale non è mai stata scalata. Ecco dunque pronta l'impresa alpinistica per i tre. Dunque in una soleggiata e freddissima mattina di gennaio del 1976 partono alla conquista della vetta, ma una volta raggiunta la vetta un movimento inconsulto di uno dei tre provoca la tragedia, e come spesso succede in montagna da un momento all'altro quello che era una splendida avventura si trasforma in ore di paura e di angoscia per tutti quanti. Ecco, poi qui tagliamo. Parliamo di un romanzo ispirato ad una storia realmente accaduta. Ti chiedo se questo romanzo può essere messo un po' in connessione con il filone di romanzi ambientati in montagna che si sta un po' riprendendo negli ultimi tempi. Viene facile pensare a Cognetti, certo, ma anche a Cane, neve, cane, che ha, come dire, sta perseguendo uno stile diverso da quello che abbiamo conosciuto magari fino a qualche tempo fa rispetto ai romanzi ambientati in montagna. Fino a un certo punto, nel senso che in questo, a differenza per esempio dei due che hai citato, cioè Le otto montagne di Cognetti e Neve, cane, piede di Morandini, esiste una vera e propria impresa alpinistica. La montagna non fa soltanto da sfondo, diventa proprio l'elemento su cui i protagonisti si cimentano, e questo lo riavvicina al filone tradizionale dei racconti di alpinismo, che si tratti di storie vere o che si tratti di romanzi, come pure anche il tema proprio della tragedia che avviene in montagna. Quello invece che può avvicinare ai libri che hai citato tu può essere il fatto che per Brollo, per l'autore, l'impresa alpinistica diventa in un certo senso il pretesto per raccontare un percorso di allontanamento traumatico, ma molto spesso avviene proprio così, una cesura netta tra l'età adolescenziale e il passaggio all'età adulta. Quindi è questo il valore universale di questo libro, che molto spesso, anche se non si è appassionati di montagna, se non si è esperti di alpinismo, ci si può rispecchiare proprio in questo passaggio traumatico che i ragazzi vivono. Ecco, quindi chiudiamo questo nostro ciclo con appunto la segnalazione di questo romanzo, che vi invitiamo a recuperare in libreria come per i due precedenti di cui vi abbiamo raccontato. Direi che l'appuntamento è a presto per nuove segnalazioni. Grazie. Si avvicina il periodo natalizio, quindi leggete e soprattutto fate conoscere la narrativa e la letteratura di montagna, perché è importante ed è insomma un filone da tenere attivo, giusto Monica? Grazie Martino e grazie a tutti voi. Vi ricordiamo che Monica la potete trovare in Viale Montenero 15 a Milano e che hanno anche un ottimo sito che si chiama www.libridimontagna.net. Grazie mille. Grazie a voi. Anche questa puntata della numero 82 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati con noi, spero vi sia piaciuta. In compagnia di Luca Trada e Martino Iniziato vi do appuntamento già sin d'ora alla prossima settimana, ma prima di arrivare a ricordare quando ci sentiamo in diretta FM, diretta streaming o come vi pare a voi, vi ricordo che l'archivio completo di tutte le 81 puntate precedenti più quella di oggi è già disponibile in streaming e download dal sito amonte.info, quindi se volete darci una mano a far girare, far conoscere, far circolare, far contribuire al nostro podcast, alla nostra trasmissione, anzitutto il sito amonte.info, il social network blu alla pagina Picchi di Frequenza, oppure quello azzurro all'account @abuzzo3. Per tutto il resto che ci siamo dimenticati, noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.